a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Bentrovati amici da Francesco Galante, nuovo appuntamento con A Regola d'Arte, questa nostra rubrica in collaborazione con l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Oggi abbiamo il piacere di intervistare al telefono il presidente del gruppo anziani di Confartigianato Padova, il cavalier Raffaele Zordanazzo. Benvenuto. Buongiorno. Signor Raffaele, allora cominciamo parlando della festa di San Giuseppe, un appuntamento importante. Anche perché, ricordiamo, San Giuseppe è il patrono degli artigiani, figura importante perché rappresenta in pieno i valori in cui si rispecchiano un po' tutti gli artigiani, cioè il lavoro, la famiglia e l'impegno sociale. Questa festa è in programma il prossimo 18 marzo, appunto. Infatti è il nostro appuntamento più sentito degli artigiani, perché proprio è la nostra festa e soprattutto da qualche anno abbiamo l'onore di essere ospiti della Basilica di Sant'Antonio. Mm-hmm. Quest'anno abbiamo anche il rettore della Basilica che ci onorerà per celebrare la Santa Messa. Poi la carovana di 8-10 Puma, perché noi facciamo la festa e abbiamo una presenza di circa 500 persone. Certo. E andiamo a fare la festa, diciamo, conviviale. Sì. Ecco. È un momento di congregazione, un momento che porta serenità all'anziano, diciamo, no? Mm-hmm. Quindi c'è questa Santa Messa nella Basilica di Sant'Antonio a Padova alle 10, poi alle 12.30 vi sposterete a Camisano Vicentino, leggevo. A Camisano Vicentino. Per il pranzo e poi anche il pomeriggio con il ballo. Sì. Per partecipare alla festa di San Giuseppe c'è ancora la possibilità di aggregarsi oppure avete già chiuso il numero massimo dei partecipanti? No. Noi non abbiamo numeri massimi. Noi abbiamo la richiesta di prenotazione, è giusto praticamente entro venerdì 10 marzo, perché bisogna anche avvisare in quanti certo. siamo. Abbiamo scelto una location che ci ospita, porta anche fino a 1000 persone, io credo che soddisfa tutti quelli che hanno la necessità di venire, insomma. Quindi un bel momento di festa per tutti gli artigiani sì. proprio per il 18 marzo. Ma voi come gruppo anziani di Confartigianato Padova organizzate anche altre cose, vi è già capitato no, di fare anche dei viaggi, delle uscite sì. magari brevi? Infatti noi nella locandina di invito alla festa abbiamo stampato anche e promosso una miriade di viaggi. Abbiamo Padova, Parenzo, Rovigno, Porto Rose, sabato 1 aprile, domenica 2 aprile, Porto Rose, Riano, Padova. Praticamente abbiamo un weekend di benessere, capito? Certo, certo. E quindi questo è un momento. Dopo abbiamo la festa dei Laghi Maggiore a Orta, il 7 maggio. Sabato 6 maggio abbiamo Lago Maggiore e Isole Borromee. Domenica 7 maggio abbiamo Lago d'Orta e Padova. Poi abbiamo in programma Rimini, una settimana di relax al mare dal 17 al 24, e sempre con prenotazioni, diciamo, riservate, certo. con conti particolari, insomma. Ecco. E poi abbiamo dal 9 al 16 giugno la festa dei nonni e nipoti. Sì, anche qui è una settimana al Marmorata Village, in località Marmorata, Santa Teresa di Gallura. Dopo abbiamo domenica 10 di settembre a Treviso la biciclettata lungo la via dei Dogi. Signor Raffaele, ci fermiamo perché sennò diamo troppi dati e poi la gente per radio se li dimentica. Certo è che ci sono veramente tante iniziative pensate per la famiglia, per gli anziani, un po' in giro per tutta l'Italia. Appunto abbiamo parlato di cose brevi, di un giorno, ma anche di alcune settimane, e tutte con prezzi particolari offerti proprio a chi è tesserato ANAP e tesserato UPA. Quindi chiediamo informazioni presso l'UPA. E poi la cosa più importante che abbiamo in programma è proprio, grazie al patrocinio della Regione Veneto, possiamo mettere a disposizione di tutti i nostri soci, domenica 21 maggio alle ore 15 al Teatro Don Bosco di Padova abbiamo uno spettacolo, però che non è un spettacolo, però che ci aiuta a difendersi dalle truffe per gli anziani. e abbiamo l'onore di avere come attore Moreno Morello, che è un specialista per queste cose. Certo. Quindi mi auguro che il Teatro Don Bosco sarà gremito in tutti i suoi posti. Sì, beh, allora lo spettacolo di Moreno Morello, che conosciamo tutti perché è sempre presente a Striscia la Notizia, è proprio dedicato ai truffatori. È rivolto proprio ai truffatori, la campagna del raggiro truffatori. Esatto. Spettacolo alto contenuto d'astuzia, praticamente ti insegna anche a avere un po' di astuzia, ecco. Certo, a non farci gabbare dal primo malintenzionato che normalmente poi è particolarmente attento a fregare o truffare, insomma, che dir si voglia, le persone anziane principalmente. Quindi uno spettacolo che può aiutare a ridere ma anche a riflettere su quelle, esatto, che possono essere le truffe. Spettacolo più... a doppio senso, proprio bisogna dire grazie alla Regione Veneto che oltre al patrocinio sponsorizza anche abbastanza questo spettacolo. Certo, domenica 21 maggio al Teatro Don Bosco di Padova, che è in via San Camillo dell'Ellis, alle 15. La prenotazione è obbligatoria, ci sarà un piccolo contributo, credo di un euro a persona. Ah, quindi... un euro è simbolico. È un euro simbolico perché bisogna essere la SIAE. Per la SIAE, ovviamente. Si può dare biglietti gratis. C'è sempre la burocrazia in mezzo che blocca un po' tutto, ma insomma è una bella cosa. Credo che un euro sia anche una cosa che dopo magari noi possiamo metterla in beneficenza. È una bella iniziativa. E c'è anche un'altra cosa che ci voleva raccontare per domenica 19 marzo. Domenica 19 marzo è la chiusura del 70° anniversario dell'Unione Provinciale Artigiani. E quindi l'Unione Provinciale Artigiani e tutto il suo sistema al Teatro Don Bosco di Padova farà uno spettacolo rivolto a tutti quanti gli artigiani che desiderano essere presenti. Quindi anche questo sarà una chiusura del 70° proprio col botto, perché è uno spettacolo veramente degno dei 70 anni di associazione. Ecco, anche questa è una bella cosa. Ricordo l'anno scorso di aver partecipato all'apertura dei 70 anni che avevate fatto in un ristorante e poi quindi c'è la chiusura al Teatro Don Bosco. Abbiamo aperta a San Giuseppe e la chiudiamo a settimana di San Giuseppe. Giustamente. Proprio un anno esatto. Ecco, ricordiamo che per ulteriori informazioni ovviamente basta chiedere l'UMI all'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani Confartigianato di Padova. Per qualsiasi cosa bisogna rivolgersi alla segreteria Confartigianato Padova oppure a Simone Pegge. Il numero telefonico è 049 82 06 387, è il numero della segreteria dell'ANAP, che chiunque può rivolgersi per la prenotazione oppure su tutte quante le sedi dell'Unione Provinciale Artigiani più comoda. Io la ringrazio per queste segnalazioni, le faccio gli auguri di un buon weekend con Carnevale, dato che insomma siamo proprio agli ultimi giorni, e quindi ringrazio nella figura del cavaliere Raffaele Zordanazzo il presidente del gruppo anziani di Confartigianato Padova. Grazie, buongiorno. Tra poco ritorniamo per continuare l'appuntamento con A Regola d'Arte. Volevo soltanto segnalare che l'ANAP è l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato. Ci ritroviamo tra poco. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e nemmeno il paese, mi aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a Ninna Nanna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con un bimbo da fasciare. Fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come il nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Seconda parte di A Regola d'Arte con Francesco Galante a condurre. Abbiamo chiacchierato con il presidente del gruppo anziani di Confartigianato Padova, il cavalier Raffaele Zordanazzo, che ci ha dato un po' notizia dei vari appuntamenti dedicati agli associati, con i vari viaggi, le uscite in giornata pensati proprio per gli associati e le convenzioni per chi è tesserato ANAP, ricordo l'Associazione Nazionale Artigiani Pensionati. Ricordo nuovamente l'appuntamento per domenica 21 maggio alle 15 al Teatro Don Bosco di Padova. È stato pensato questo appuntamento che si intitola Truffattori. La compagnia del Raggiro presenta questo spettacolo teatrale ad alto contenuto d'astuzia di e con Moreno Morello. Lo show mira a svolgere un approfondimento sui mezzi con i quali si veicolano gli inganni e sulle leve utilizzate dai furbetti per favorire gli equivoci. Si indaga sulla mentalità del truffatore medio, sulla sua punibilità, curiosando nei limiti del possibile sui suoi guadagni. Si cerca pertanto di capire cosa succede dopo la truffa con una nota d'inchiesta. Spesso purtroppo al truffatore bravo basta investire poco per guadagnare parecchio in breve tempo e rischiando poco o nulla. Lo spettacolo proverà a spiegarne il perché. Per difendersi non basta semplicemente conoscere l'imbroglio specifico, ce ne sarà presto uno leggermente modificato a mietere nuove vittime. Fondamentale è conoscere quindi il paradigma dell'inganno, le sue dinamiche che sono invece ricorrenti. Moreno Morello, da narratore, guiderà il pubblico in un percorso in cui si alternano situazioni tipo, ricostruite sul palco, contributi video e stacchi musicali suonati dal vivo per uno spettacolo ricco e dinamico. Ricordo questo appuntamento dedicato proprio agli associati ANAP. L'appuntamento vuole la prenotazione, che è obbligatoria, telefonando alla segreteria provinciale ANAP. Chiedete di Simone Pegge allo 049 8206 387 o inviate una mail a simone.pegge@upa.padova.it. Buon divertimento per domenica 21 maggio alle 15 al Teatro Don Bosco di Padova in via San Camillo dell'Ellis. Chiudiamo come sempre con la segnalazione di un servizio dell'Unione Provinciale Artigiani. Parliamo della polizza installatori in esclusiva per gli associati che è in scadenza il prossimo 18 marzo. Confartigianato Padova promuove per tutti gli installatori di impianti associati una polizza assicurativa studiata in esclusiva per loro da Unipol Sai S.p.A. Si tratta di un'opportunità da non perdere, ha detto Moreno Favarone, presidente del sistema di categoria installatori di impianti di Confartigianato Padova, presentando questo servizio. L'UPA propone da anni questa opportunità perché ad un prezzo davvero concorrenziale garantisce agli installatori una copertura assicurativa in caso di danni durante l'orario di lavoro. Questa convenzione consente agli iscritti, in regola con il tesseramento associativo, di usufruire della polizza annuale per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti. La polizza prevede un massimale di 5 milioni di euro per la responsabilità civile verso terzi e variabile da 5 a 1 milione di euro per i propri dipendenti. Il 18 marzo è il termine ultimo per rinnovare la polizza per chi l'ha già sottoscritta o per chi intende farla per la prima volta. Le sedi territoriali di Confartigianato Padova sono a disposizione per regolarizzare il pagamento del premio. Per ulteriori informazioni chiedete di Graziella Scarparo, Confartigianato Padova, telefono 049 8206 103. Altre informazioni le trovate sempre nel sito di UPA, www.upa.padova.it. A tutti voi grazie per l'attenzione, un saluto a tutti da Francesco Galante, alla prossima settimana. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.